Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Quanto vale il nome per brand e prodotti? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Partiremo dai casi dei grandi marchi occidentali che cambiano nome sul mercato cinese per esplorare i segreti del naming, il ramo del marketing che si occupa appunto dello studio e della scelta dei nomi dei prodotti e dei brand. Focus sui trend dedicato invece al nuovo artigianato o artigianato d'avanguardia, quando il fatto a mano fa tendenza. Prima di iniziare però una sorpresa per voi, anche noi di Radio 24 vogliamo farvi un regalo. Oggi tocca a Essere e Avere, restate in ascolto perché a fine puntata vi dirò come fare per aggiudicarvelo. Ora le notizie e curiosità di questa settimana. 10 prodotti e 10 consigli per una spesa senza brutte sorprese. È il decalogo natalizio per i consumatori messo a punto dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari e dal Movimento Difesa del Cittadino. Per segnalazioni o chiarimenti è a disposizione il numero verde antifrodi 800 020 320. L'Accademia Italiana della Cucina intanto stila il menù anticrisi. Per una famiglia di 6 persone, 85 euro complessivi per la cena della vigilia e 105 euro per il cenone di Capodanno. Sì alla tradizione, no alle mode. Se tutti comprano le stesse cose, dice il presidente Giovanni Ballarini, è logico che il loro prezzo salirà alle stelle. E la qualità, data l'enorme richiesta, non sempre resterà ai massimi livelli. È entrata in vigore la nuova direttiva europea sui diritti dei consumatori. Ora gli Stati membri hanno 2 anni di tempo per recepirla. Fra le novità, nuovi obblighi di informazione al consumatore e l'estensione del diritto di recesso dagli attuali 10 a 14 giorni. Ha raggiunto i 500.000 visitatori al mese guidaacquisti.net, web rivista indipendente per le recensioni dei prodotti. Dalle ciglia finte alle gomme per l'auto, si definisce la Wikipedia della spesa e lancia un messaggio ai consumatori. Impariamo a scegliere per non diventare merce anche noi. 15 euro per una gallina, 20 per una capra, 70 per un asino, 50 per un kit di emergenza. Sono i regali solidali che propone l'associazione umanitaria Oxfam Italia a sostegno delle condizioni di vita nel sud del mondo. Tutte le proposte sul sito glispacchettati.it. La borsa della spesa. Noi viviamo, come saprete, signor Worden, in un'epoca di ideali. E il mio ideale è sempre stato quello di amare qualcuno che si chiamasse Ernest. C'è qualcosa in questo nome che ispira assoluta fiducia. Dal primo momento che Algie mi ha detto che aveva un amico chiamato Ernest, ho capito di essere destinata ad amarvi. Non mi direi che non potresti amarmi se non mi chiamassi Ernest. Però tu ti chiami Ernest. Sì, lo so, certo, ma però, tesoro, ti devo dire con franchezza che a me non fa impazzire il nome Ernest. Anzi, io credo che non mi stia affatto bene. Invece ti sta a perfezione, è divino come nome, ha una musica tutta sua e produce delle vibrazioni. Oscar Wilde, docet, quanto pesa l'importanza di chiamarsi in un determinato modo? Per brand e prodotti vale una fortuna, soprattutto sul mercato più in espansione che ci sia, quello cinese. Divertimento gustoso, passi veloci, pulizia superiore. Ecco cosa significano in cinese i nomi dati rispettivamente a Coca-Cola, Reebok e Colgate. Nomi opportunamente modificati e non semplicemente tradotti a livello fonetico in mandarino, altrimenti i risultati sarebbero stati molto meno efficaci. Chi ha sottovalutato l'importanza del nome e del suo significato profondo, in Cina, dove il mercato dei beni di consumo cresce del 13% ogni anno, del 25% se si parla di beni di lusso, ha sfiorato il disastro. È corsa ai ripari Microsoft, che aveva mantenuto il nome Bing al proprio motore di ricerca, ignorando che in mandarino significa virus, cambiandolo così in Ing Bing, cioè a colpo sicuro. Oppure Peugeot, che tradotto significa prostituta. E ora è boom per le società di consulenza che vendono nomi adatti a brand e prodotti che decidono di scavalcare la Grande Muraglia. Questo dunque è quanto accade in Cina. Da noi invece si assiste alla personalizzazione dei prodotti di massa, la cosiddetta customizzazione, che soprattutto via Facebook offrono gli stessi grandi brand. La possibilità di ricevere cioè a casa i prodotti con il proprio nome stampato sulla confezione, al posto del marchio. Mi piace citare su tutte l'iniziativa di Heinz, la multinazionale dell'alimentare che in Inghilterra con l'operazione Get Well Soup ha offerto la possibilità di inviare a un amico malato una lattina di zuppa personalizzata. Nomi su misura dunque tra Oriente e Occidente. Quanto conta ancora il naming in pubblicità e nel marketing? Dove puntare per non sbagliare? Lo abbiamo chiesto a Chiara Sozzi Pomati, direttore creativo dell'agenzia Future Brand. Il naming è sicuramente importantissimo. Il problema è che con la globalizzazione il segno forse diventa ancora più importante di quello che in realtà non sia il naming. Pensando a popolazioni intere che possono non essere in grado di leggere un nome e di conseguenza un brand, bisognerebbe andare sempre di più verso un linguaggio visivo e universale. Il futuro sarà più nel segno, certamente. Non vorrei fare i soliti esempi di Apple e Nike, ma sicuramente loro hanno individuato la strada più corretta in un mondo che va sempre di più verso una globalizzazione. Noi dobbiamo cercare di essere il più visuale possibile, ecco, trovare delle icone forti in grado di trasferire le essenze delle marche prima ancora che compaia il nome della marca stessa. Quali sono gli errori da non fare? Gli errori da non fare sono cercare di esportare il proprio brand senza prima essere passati attraverso un cultural check, quindi un test culturale all'estero, e quindi approfondire quello che sono gli usi, i costumi e la cultura del paese nel quale si vuole andare. Bisogna stare attenti non solo al suono, al segno, anche addirittura ai colori. Io posso fare degli esempi clamorosi in cui si andava in paesi musulmani con dei brand colorati di verde, sapendo benissimo che il verde è il colore dell'Islam, e quindi insomma bisogna stare attenti a tutto. Le vengono in mente casi clamorosi di successo o viceversa casi di flop che hanno fatto storia e scuola in qualche modo? Assolutamente sì, casi di successo sono sicuramente Coca-Cola, che nel momento in cui ha dovuto tradurre il proprio nome, in questo caso l'ha tradotto con un fonema che in mandarino significava gusto e divertimento. La stessa cosa Heineken, grandissimo successo. La stessa IKEA, nel momento in cui appunto ha dovuto esportare il proprio brand in Cina, l'ha tradotto con un significato molto interessante e molto in linea con la propria essence, quindi la casa economica. Ci sono ahimè invece dei casi abbastanza clamorosi di flop. Nike si è spinta con un advertising nel 2004 che aveva come protagonisti dei dragoni, che sappiamo essere abbastanza untouchable in Cina perché considerati ovviamente sacri, e di conseguenza un advertising è stato censurata e bandita. Capita a volte di dover rinominare un prodotto perché il nome è stato scelto in modo sbagliato e non ha dato i risultati sperati? Sì. In realtà ci sono nomi che non sono traducibili. In questo caso, piuttosto che trovare delle soluzioni poco interessanti, sia in termini fonetici che in termini visivi, quindi in termini ideogrammi, sarebbe meglio cercare di tradurre quella che è proprio la brand essence, quindi quelli sono i valori della marca. Il nostro mercato è abbastanza aperto, ormai i consumatori sono abituati a leggere nomi

agli oggetti culto del nostro quotidiano, vedi smartphone e computer, ed ecco l'amplificatore per iPhone fatto a mano in legno senza componenti elettriche, dunque anche senza corrente, con due casse acustiche che aumentano il volume di 4 volte, si chiama Acoustic, costa $90. Altro esempio, le cover fatte a mano per MacBook Pro dalle sembianze di antichi libri in pelle consunta in nero o in rosso, si chiama BookBook. Immancabile il social network per lo scambio di manufatti artigiani, si chiama Craft Swap, ed è un progetto di creazione artigianale condivisa evidentemente oltre il mondo digitale. E artigianato e design si incontrano nella figura di Lino Sabattini, ex operaio, classe 1925, artigiano, argentiere e designer insieme. Sabattini ha creato oggetti esposti nei musei di tutto il mondo e ha collaborato con i più grandi nomi e marchi del design, da Gio Ponti a Bruno Monari, da Cassina a Christophe. Un documentario uscito quest'anno lo ha celebrato. Quando si disegna si fa qualche cosa apparentemente astratto, ma è astratto per chi lo vede, ma non per chi lo fa. È un ritmo musicale, è una musica senza note, però una musica di forme e di colore. Fare, poi dopo poi qualche cosa maturerà. Non bisogna mai fermarsi, mai, assolutamente. Io andavo per conto mio e la corrente andava per conto suo. Soltanto che io non volevo seguire l'andamento della moda, del momento, perché la gente chiedeva questo. Non riesco a farmi capire che cosa vuol dire il mio stile. Il mio stile è un po' il mio carattere, capito? Patrizia Cecchi sottolinea come la rivalorizzazione dell'Homo Faber, in America li chiamano i makers e li celebrano come i nuovi motori della creatività, porti con sé anche una certa responsabilità sociale nel mondo della produzione e dei consumi. Cosa ne pensi? Sì, il nuovo artigiano, quello descritto dal sociologo americano Sennett nel suo fortunato libro, tra l'altro uscito nel 2008 all'inizio della crisi, parla dell'Homo Faber. È un profilo anche molto preciso, cioè non ha nostalgia del passato, usa le nuove tecnologie, reinterpreta le tradizioni, ma soprattutto sa mettere in relazione la testa con le mani e può essere il nuovo motore di una nuova economia. E c'è anche un altro libro altrettanto seminale, si chiama Futuro artigiano di Stefano Micelli, ed è sul lavoro artigiano come nuovo immaginario per l'industria italiana futura, quindi per il futuro italiano. E certo c'è in questo un portato in termini di responsabilità sociale che non è da attribuire solo alle aziende, alle imprese, anche quelle artigiane, ma che è anche e soprattutto da un attributo dei consumatori, perché significa chiedersi per esempio quanto senso ha produrre e comprare oggetti standard di basso valore, di dubbia utilità, se così si può dire, quando le risorse del pianeta sono evidentemente in via di esaurimento. Dunque artigianato fa rima anche con sostenibilità, con responsabilità sociale, con riciclo, riuso creativo di materiali di scarto, e qui gli esempi dal mondo dei consumi sono innumerevoli, dalla moda agli accessori, ai complementi d'arredo, e questo in termini di lifestyle intercetta i desideri di estetiche, di materiali, di oggetti che rimandano a riti, linguaggi, mondi del fare artigianale. La personalizzazione e l'alta qualità oggi sono esigenze diffuse nei consumatori che, scegliendo prodotti di matrice artigianale, per esempio rifuggono lo standard, l'usa e getta, e cercano contenuti, emozioni, conoscenze e anche per esempio la storia dei prodotti, dei loro autori, le persone in carne e ossa con le facce e le mani che li hanno creati. È il caso di whomade.it, un sito che si definisce design for the avant-craft, quindi artigianato innovativo ad alto valore umano aggiunto. Sono oggetti, si legge, che guardano avanti fondando le proprie radici nella cultura e nelle espressioni di materiali antichi e nobili, dunque il valore umano. Sono interessanti le definizioni di molte mostre sull'artigianato contemporaneo che mettono l'accento sull'uomo che fa. Una recente ad Harlem si intitola Man Made, fatto dall'uomo, un'altra titolava Human Made, un'altra ancora Intelligent Craft, cioè il fare artigianale intelligente. Dunque la figura dell'Homo Faber, dell'artigiano, è proprio l'emblema di un modo di lavorare, di un processo di di produzione, di un legame con il fare, con l'oggetto creato, che è già oggetto di recupero da parte anche di nicchie di giovani. Nuove generazioni di artigiani punteggiano i centri storici di molte città, recuperando un know-how che certamente sta andando perduto, ma mostra qualche segno di un'inversione di tendenza, un po' come succede per un altro mestiere, quello del contadino. Homo Faber rimanda a bottega, e l'immaginario della bottega artigiana rinascimentale interpreta bene l'idea di un nuovo modello di produzione e di consumo che valorizza le produzioni locali. Si chiama Opificio JM, il nuovo progetto di John Malkovich, attore regista ma ora anche stilista e imprenditore, che ha aperto a Prato la sua bottega artigiana. Dall'enogastronomia all'abbigliamento offre i prodotti manifatturieri toscani, compresi accessori di interior design molto particolari realizzati con verdure e erbe di montagna locali, e la linea di abbigliamento maschile ideata dall'attore, che si chiama Techno Bohemian. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in Inghilterra su nuovo artigianato e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Alchemist Dreams, letteralmente i sogni dell'alchimista, è il primo servizio di liquori artigianali su misura. È proprio da un sogno che nasce questa idea. Quello di Ruth Ball, che appena laureatasi in chimica, anziché lavorare al chiuso di un laboratorio, sognava di utilizzare le competenze acquisite in modo non convenzionale. Dal sito che porta questo nome, quindi, e limitatamente al territorio della Gran Bretagna, si possono ordinare i liquori che Ruth miscela e mette in infusione a mano a seconda del gusto prescelto. I passi sono molto semplici. Il primo consiste nello scegliere tra diversi frutti uno o due aromi base che faranno da sfondo a quello che viene definito l'aroma accento, ossia un'essenza concentrata di erbe o spezie. I due elementi andranno a comporre la miscela, il blend nel gergo tecnico, personalizzata. Il liquore così ottenuto viene imbottigliato in ampolle di vetro, di cui si può scegliere la dimensione, e anche queste vengono realizzate a mano. E per finire, le bottiglie vengono suggellate con tanto di cera lacca e etichetta personalizzata vergata a mano. Grazie Alessia. Patrizia, è un futuro artigiano, per citare nuovamente il libro manifesto di questa tendenza, quello su cui scommettere, soprattutto in una realtà come quella italiana? Beh, direi di sì. Per l'Italia il futuro potrebbe essere proprio artigiano, patria di prodotti qualitativamente eccellenti, polo manifatturiero dell'impero del lusso, non dimentichiamolo, potrebbe trovare proprio nell'artigianato, quello evoluto, d'avanguardia, di cui abbiamo parlato, una direttrice di trasformazione di un futuro economico o addirittura di una rivoluzione industriale futura, per citare il commento specifico fatto da Chris Anderson, quindi guidati dalle piccole imprese artigiane. Ma stiamo parlando del nuovo artigianato, che niente ha a che fare col mondo perduto dei bei tempi andati, niente nostalgia folcloristica. Si parla di imprese artigiane ad alto contenuto tecnologico che creano oggetti innovativi di qualità in numero limitato e su misura. Siamo in chiusura, come annunciato arriva il regalo che vi abbiamo promesso. Si tratta di un cofanetto Smart Box Gocce di Bellezza. Andrà al primo ascoltatore che manderà un messaggio con scritto Smart Box al nostro numero per gli SMS 349 238 6666. Finisce qui dunque anche questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it sezione podcast, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.